Ci sono giorni che ho l'animo afflitto senza nessuna ragione. Tutto scorre nella norma, non mi sento colpevole nei confronti di Dio e del prossimo, perciò meno, come suppongono gli psicologi, meno può darsi che sia colpa del tempo, o che il fegato o qualche altro organo del corpo non funzioni bene. Può darsi. Sta di fatto che alzarsi o trovarsi nel corso della giornata oppresso o senza voglia di vivere è un'esperienza che ritrovo in tutti gli esseri umani. Non è certamente una cosa buona e bisogna gestirla bene. Non è buona perché se sfugge di mano, una certa oppressione può portare alla depressione, o addirittura per alcuni anche all'estremo gesto del suicidio. Inoltre, come figlio di Dio, quale sono ogni tristezza e ogni oppressione che non è motivata razionalmente deve essere subito scartata perché non procede da Dio. I nostri sentimenti o emozioni sono una parte importante nella nostra vita, anche se non dobbiamo dare ad essi l'importanza loro attribuita dalla gente comune, perché essi sono ingannevoli e mutevoli come il tempo. Perciò, quando mi trovo ad essere giù con sensazioni di inutilità e vedo tutto nero, spesso penso ad un racconto molto noto, ma che vale la pena riportare alla mente perché ha la capacità di risollevare il morale. Era danneggiato e graffiato e il banditore pensava che non valesse proprio la pena perdere il tempo per il vecchio violino. Ma levò in alto un sorriso. «Quanto mi offrite, brava gente!» gridò. «Chi dà inizio alle offerte? Un euro!» offrì il primo. Due euro!» offrì il secondo. «2 euro!» chiese il banditore. «Chi ne offre tre? 3 euro e 1, 3 euro e 2. Lo aggiudichiamo per 3, ma no!» Dal fondo della sala avanzò un uomo dai capelli grigi. Prese l'archetto, ripulì dalla polvere il vecchio violino e dopo averlo accordato suonò una pura e dolce armonia. Dolce come il canto di un angelo. La musica cessò e il banditore con voce pacata, quasi sottovoce, disse «Quanto mi offrite per il vecchio violino?» e lo sollevò insieme all'archetto. 1000 euro!» gridò una voce. «Chi ne offre 2000? 2001!» gridò un altro. «Chi ne offre 3000? 3001, 3002, aggiudicato!» disse il banditore. La gente applaudiva, ma alcuni erano scossi. «Non capiamo. Che cosa ha cambiato il valore del violino?» «Il tocco del maestro», rispose il banditore. «Il violino danneggiato e graffiato rappresenta chiunque fra noi che nel corso della vita abbia subito torti, violenze di ogni genere o carenza di affetto. Siamo entrati in questo mondo avendo tutto in regola, ma poi rapporti sbagliati con genitori, amici e parenti ci hanno ferito. Altri più sfortunati nascono già con problemi fisici e psicologici, per cui se la vita è di per sé difficile per chi nasce sano, per loro è quasi impossibile da vivere. Perciò, per forza di cose, tutti noi, per un motivo o per un altro, abbiamo relazioni stonate o emaniamo suoni scordati quando desideriamo comunicare qualche cosa. Ci rendiamo conto della mancanza di armonia nella vita, siamo consapevoli che, piuttosto di produrre assieme una eufonica corale, siamo un branco di persone che schiamazzano note stonate differenti e in contrasto tra loro. È questa una delle ragioni per la quale ormai siamo tutti suscettibili e insopportabili, e la vita è diventata un campo di battaglia dove ognuno vuole emergere per cercare di non essere sommerso e schiacciato dalla malvagia fiumana dell'esistenza. Un violino senza valore. Ecco come si può rappresentare il mondo con tutte le sue modernità. Ecco come mi vedo quando improvvisamente i sentimenti negativi vibrano nel mio cuore. Che valore posso avere? Non sono un'autorità famosa, non sono un personaggio osannato del mondo dello spettacolo, come neppure stimato quanto vorrei. Almeno le mie capacità siano riconosciute. Si pensa, ma spesso gli altri non comprendono quello che siamo o il valore che abbiamo. Infatti, il più delle volte si apprezzano le persone e le loro capacità solo dopo la loro morte. E per quanto si pensa di far bene, questo non fa altro che aumentare la nostra colpevolezza. Infatti, le parole di Gesù rivolte ai farisei sono molto pesanti. «Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri dei profeti e ornate i monumenti dei giusti, e dite, se noi fossimo vissuti al tempo dei nostri padri, non ci saremmo associati a loro nell'uccisione dei profeti. Così dicendo voi testimoniate contro voi stessi, che siete figli di coloro che uccisero i profeti. Voi superate la misura dei vostri padri. MT 23.2, 9.32. I farisei pensavano di onorare i profeti uccisi ricordandosi di loro costruendo dei begli edifici, ma il loro gesto li colpevolizzava. Chi vuole onorare qualcuno deve riconoscerne le buone qualità. Quando questo è in vita, diversamente, a morte avvenuta accuserebbe se stesso, rivelando di aver sbagliato a non onorarlo a tempo debito. Il violino di poco valore, danneggiato, graffiato e scordato, in seguito, è stato stimato grandemente e comprato per il vero prezzo. Perché? Perché è intervenuto qualcuno di usarlo in modo appropriato e lo ha dimostrato a tutti, facendone uscire una melodiosa musica. Il violinista in questo caso rappresenta Cristo Gesù che con la sua potenza è in grado di accordare, cioè armonizzare, l'uomo con Dio e, quando l'essere umano cede il possesso della propria volontà al Salvatore, Cristo è in grado anche di farlo vibrare armoniosamente con la vita e con se stesso, al punto tale che chi ascolta comprende di trovarsi di fronte a qualcosa di insolito e di straordinario. Questa è l'opera straordinaria che compie Dio nella vita di chi si affida completamente a Lui. Quante vite un tempo rovinate, diventate nuove per mezzo di Gesù Cristo? Quanti drogati usciti dal laccio della droga mediante una vera conoscenza di Gesù? Quanti matrimoni falliti, riedificati mediante un vero perdono ricevuto da Cristo? Tutti i violini rovinati da buttare via, ma che il grande musicista ha saputo accordare e trasformare in esistenze vissute per il regno di Dio e per il prossimo. Penso a quella ragazza, che potrebbe essere l'emblema della gioventù senza Cristo, rimasta incinta improvvisamente da un ragazzo che non voleva il figlio e che in seguito accettò di abortire, nonostante l'opposizione dei genitori e di alcuni medici. Ogni notte era tormentata da incubi, sognando feti buttati via. Un'angoscia senza fine. Passato un anno si sposa con un altro ragazzo, ma il matrimonio era un inferno, fino a quando non ascoltò il messaggio di perdono di Cristo tramite il Vangelo e ricevette una pace capace di togliere ogni angoscia. Con la coscienza di essere perdonata, iniziò a vedere il mondo e se stessa con gli occhi di Dio. Chiese perdono ai suoi genitori e a suo marito. La sua gioia fu totale quando, dopo alcuni anni, partorì un bel bambino. Oppure penso alla testimonianza di quell'altra ragazza che conviveva con il suo compagno, al quale ad un tratto fu scoperto un tumore alla testa. Prima di morire, il ragazzo ebbe l'opportunità di ascoltare l'Evangelo e, avendolo accettato, morì nella serenità. Ma la ragazza si ribellò a Dio e alla vita. Tutto era nero e angoscia. Ma anche lei ascoltò il messaggio di perdono di Gesù Cristo e alla fine si arrese. Ora, testimonia a tutti che Dio l'ha grandemente amata, perché tramite il tumore e la morte del suo ragazzo ha potuto conoscere Cristo e il suo dolore si è trasformato in una gioia eterna, sapendo che un giorno sarà per sempre con colui che aveva tanto amato. Ora la ragazza è un violino che suona una divina musica. Che dire? È possibile parlare degli altri senza pensare alla propria vita? È possibile non raccontare ciò che Dio ha fatto di un violino trovato nella spazzatura? Per quanto mi riguarda, posso dire meno, come è scritto nella lettera ai Romani, che Dio sta trasformando la mia mente perché possa avere una giusta visione della vita e di Dio stesso. Infatti, la maggioranza delle nostre sofferenze sono morali e derivate dai sensi di colpa. Lo dimostrano tutte quelle persone che vivono con la paura del giudizio eterno, con l'angoscia causata dalla coscienza di essere mancanti davanti a Dio e agli uomini, con il terrore del domani e della morte. Il suono che producono queste persone è funebre e senza consolazione. Nulla di nuovo, anch'io prima di aver ricevuto per grazia meno, cioè senza meriti meno, il perdono di Cristo e il dono dello Spirito Santo, avevo un cuore appesantito e un vuoto incolmabile. Se il mio creatore avesse voluto produrre della musica tramite me, la strazio più straziante era la miglior cosa che poteva ottenere, ma siano rese grazie a Dio perché Cristo Gesù ha accordato, cioè allineato, le corde del mio cuore e della mia mente alla sua volontà, ed ora non sono più io che suono o cerco di suonare, ma è il mio grande maestro. È vero che di tanto in tanto escono note stonate, ma non ho neppure questo problema. Come mai, mi si dirà? Perché il peccato e ogni aspetto morale è risolto una volta per sempre. Innanzitutto perché sono una creatura imperfetta, e questo Dio lo sa molto meglio di me, perciò non posso pretendere di essere perfetto. Accetto i miei limiti e la mia natura con le sue inclinazioni malvagie. Accetto di avere degli sbalzi di umore, anche perché non li ritengo peccato. Dio mi ha creato così, con sentimenti incostanti, a volte anche ripugnanti. Ma quando ho capito da Dio che il peccato non è nelle emotività alterate o negli improvvisi pensieri malvagi, ma nell'assecondarli, allora accetto le inclinazioni della mia malvagia natura perché fanno parte del mio essere umano. Io sono profondamente convinto che dobbiamo umanizzare l'uomo piuttosto di divinizzarlo, anche perché il compito di vivere per lo Spirito di Dio è un'opera di Dio stesso, mentre a noi sta il dovere di abbandonarci completamente all'azione dello Spirito Santo. Il compito del violino non è produrre una buona musica, ma di lasciare che il grande musicista suoni la melodia che vuole. Che dire, io sono un violino scordato, malandato e anche rotto, ma a me poco importa, perché gli occhi sono fissi su Gesù Cristo, il quale è in grado di suonare ciò che gli piace. E una volta che il violino ha appagato il violinista, non vi è ambizione più grande. Un giorno, al grande cantante modenese, Pavarotti sfuggì una nota stonata, e il fatto fu subito divulgato dalla televisione a milioni di persone, ma questo non ne abbassò la fama. Se anche a me sfuggono note stonate, nessuno toglierà l'opera che Dio ha fatto nella mia vita, e anche nella tua. Lo ha promesso Gesù. Aprile 2008. Ellero.